Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Milano dunque ha imboccato la strada dell'Expo, in bocca al lupo per questa avventura a lei, all'Expo, naturalmente a tutta l'Italia che è sotto i riflettori, in particolare è la città di Milano sotto i riflettori. Ma c'è un modo per conoscere Milano. E il libro di cui parlo oggi ci presenta la città da una prospettiva molto inconsueta, cioè dal basso e non dall'alto, dal sottosuolo, in particolare dalle viscere della metropolitana. Il libro di cui vi parlerò oggi è quello di Stefano Bartezzacchi, una metronovela. È pubblicato da Einaudi, 282 pagine, 20 euro. E questa è la voce della metropolitana milanese. Nel libro infatti troviamo una Milano vista dal basso, questo di Bartezzacchi è diviso in tre parti, mezzanino, convoglio, capolinea, ed è scandito dalle fermate delle linee della metropolitana milanese che proprio nei giorni scorsi, in occasione di Expo, si sono arricchite di tre nuove fermate. L'opera di Bartezzacchi è un'opera certamente singolare che insieme descrizione di Milano, autobiografia e racconto, e tutti questi elementi sono ispirati appunto da una fermata del treno sotterraneo di Milano, per il quale, dice Bartezzacchi, non bisogna mai essere troppo pignoli. I nomi delle fermate, infatti, ci spiega, non sempre coincidono con i luoghi fisici ai quali fanno riferimento, per esempio Sant'Ambrogio. La chiesa è abbastanza discosta da dove si trova la fermata. E questa osservazione non è banale, perché emerge dal libro una geografia sotterranea che non è parallela, ma per così dire dissociata rispetto a quella che c'è in superficie. Protagonista del libro, dunque, è Milano, i milanesi, lo stesso Bartezzacchi e degli strani personaggi, alcuni veri, alcuni di fantasia, che portano spesso nomi esotici e stranieri, che letti e pronunciati attentamente ai milanesi risultano familiari. Per esempio c'è Joe Mandelnickel, che naturalmente i milanesi pronunceranno come Joe Mandelnickel, c'è Vescia Peirat, ma che si legge in meneghino Vacia Peirat, c'è anche una Kerhampan, che naturalmente è Carampana. Insomma, troviamo un affascinante viaggio dentro e sotto Milano che diverte, che diventa un viaggio intorno a se stessi, come ci spiega adesso l'autore. Buonasera a Stefano Bartezzacchi. Buonasera. Stefano Bartezzacchi, lei dà nel suo libro una serie di definizioni della metropolitana, in particolare della metropolitana milanese, la definisce un ambiente, un universo circoscritto di significazione, una semiosfera e poi un inconscio e poi un'idea e poi una teoria sulla città, una sintesi, un riassunto, una rappresentazione, un'ombra riportata. Insomma, lei che idea si è fatta? Che cosa rappresenta la metro, in particolare la metro di Milano? Come in tutte le città dotate di metropolitana, la metropolitana è una specie di doppio della città. È Milano, nel caso che ho preso in esame di più, ma appunto è un'altra Milano con dei rapporti con invece la città di superficie un po' particolari. È proprio la cosa che mi interessava, questo sdoppiamento, questa esistenza di un sopra e di un sotto. Ecco, ma c'è uno specifico rapporto di questa città con la sua metropolitana, di Milano? C'è qualche cosa di particolare della metropolitana milanese nel rapporto con la città rispetto alle altre? Ma appunto non sono un esperto così, però sicuramente ecco a Milano, che è una città che si è caratterizzata anche appunto da una certa fretta, la metropolitana da questa possibilità di percorrenza in velocità, molto apprezzata ovviamente dai milanesi e anche dai pendolari, da quelli che frequentano Milano per le più diverse ragioni, e tanto apprezzata che poi si apprezza soltanto la velocità, cioè la funzione della metropolitana e non più l'esperienza in sé di scendere a prendere un treno sotterraneo. E io appunto ho cercato di focalizzare proprio quella esperienza che per molti invece è soltanto un momento così di puro trasferimento. Ecco, fermiamoci su questo aspetto, la fretta, perché a un certo punto lei fa un'osservazione abbastanza inconsueta, cioè dice che a Milano in fondo si può passeggiare ed è anche gradevole passeggiare. La gente non se l'aspetterebbe forse. Infatti, questo, anzi, normalmente insomma lettori del libro mi hanno anche detto: ma in realtà a Milano se passeggi ci fai la figura del perdigiorno, perché questo forse è un po' uno stereotipo. In realtà io appunto passeggio molto volentieri per Milano, anzi faccio passeggiate e mi sento un po' un pioniere, ma da insomma alcuni anni, prima con la chiusura del centro e adesso anche con nuovi spazi che sono stati aperti per l'Expo, per tutta insomma la rivoluzione anche urbanistica che ha avuto Milano, ci sono molti più sia zone pedonali che proprio spazi dedicati al movimento pedonale, e di questo ovviamente io mi rallegro particolarmente. A un certo punto però lei sembra che non abbia particolare simpatia verso l'impegno che Milano ha dedicato a bucherellare le proprie viscere con la metropolitana. Sembra quasi che abbiamo esagerato. Ma appunto, chiaramente poi nell'animo di un cittadino si muovono sempre spinte contraddittorie. Quando ti aprono un cantiere sotto casa, come peraltro non per la metropolitana, ma peraltro a me è capitato per 2 anni interi, è chiaro che i disagi, le maledizioni affiorano alle labbra. E poi appunto quest'idea di vivere sempre appunto in un senso, zone come l'isola per esempio, che è stata un cantiere per anni e anni, è faticoso. Poi quando ormai non lo si spera più, i cantieri chiudono, i lavori vengono finiti, a volte si godono delle novità importanti e buone nel panorama cittadino. Ecco, come dicevo, però il suo è anche un libro di narrativa. Allora spieghiamo il sottotitolo: una metronovela. Lei parla di una metcom voluto scrivere come risposta a quella che lei stesso chiama lo scempio pubblicitario da cui siamo bombardati quando appunto andiamo nelle stazioni della metropolitana, e sui monitor aggiunge dovrebbero passare delle storie, non delle pubblicità. Che storia offre oggi Milano ai suoi viaggiatori di metropolitana? Il personaggio che dice io, che coincide con me fino a un certo punto, è fortemente irritato dalla presenza di questi monitor sui marciapiedi in cui si attende la metropolitana, che danno insomma quel miscuglio di informazioni un po' generiche, soprattutto pubblicità, e con audio a volte anche molto sensibili, in modo che non si riesce più né a leggere né neanche a conversare o a pensare ai fatti propri. E allora questo personaggio dice: che cosa può sconfiggere? Perché dato che queste cose portano reddito alla metropolitana, è chiaro che non verranno tolte mai, e bisogna usarle, cioè riconvertirle. E l'idea che gli viene è quella di fare una fiction, perché lo storytelling al momento è più potente della pubblicità, la contiene addirittura. E allora si immagina questa fiction insomma un po' bizzarra, con 2 personaggi che si aggirano per la Milano, soprattutto la Milano da bere, perché sono come 2 agenti segreti internazionali che stanno propiziando il lancio di una nuova bevanda alcolica. E la Milano di questi personaggi è una Milano molto globalizzata, tutti i loro amici non sono italiani, hanno qualche amico italiano, ma soprattutto amici non italiani. Ho voluto dare anche un po' un'immagine così un po' parodistica di questa, della vocazione cosmopolita della città. Ecco, fermiamoci su questo. Infatti ricordavo poco fa i nomi che letti in Meneghino assumono un significato quasi beffardo. Questa caratterizzazione significa che Milano alla fine resta una città un po' provinciale, oppure che effettivamente c'è una vocazione globale, internazionale, che l'anglofonia dei nomi dimostra? Sì, la metronovela si chiama Chuck and Dem, perché i 2 personaggi principali sono una canadese, Chuck, e un greco, Dem, che può essere Demostene o Demetrio, e però in milanese Chuck and Dem significa dai che andiamo, il modo in cui insomma tipicamente il marito mette fretta alla moglie che si sta ancora preparando per uscire, quando il marito è già con il cappotto e le chiavi in mano. Chuck and Dem. E insomma i due universi diciamo sono legati, nel senso che appunto mi pare che Milano, che sicuramente accoglie tantissimi stranieri di tutti i livelli sociali, di tutte le professioni possibili, però li milanesizza e appunto prendono un comunque anche geloso, diciamo, delle sue prerogative storiche, così come peraltro avvenne anche con l'immigrazione dal sud Italia, che insomma Milano è una delle città in cui i meridionali che arrivavano a cercare lavoro si sono meglio integrati, magari sfottuti, però meglio integrati. E mi pare che appunto sia una cosa sempre bivalente, la vocazione quasi dialettale di Milano e invece quella cosmopolitica. Milano è esempio riuscito di glocalismo, insomma. Ma è un esempio abbastanza compiuto, ecco, non so se è riuscito, però abbastanza compiuto. Facciamo un esempio di una sua tappa in una fermata. Parliamo delle osservazioni che le ispira la fermata di Pagano, in cui ho trovato alcune osservazioni abbastanza amare, per esempio sulla decantata borghesia milanese, ma anche ispirate appunto alla collocazione fisica di questa stazione, sul bivio, o meglio sulla difficoltà a riconoscere nella vita i bivi che dobbiamo affrontare. Sì, Pagano è la fermata abbastanza centrale della linea 1, in cui la linea 1 si biforca e quindi appunto viene annunciata, perché se uno non è stato attento deve andare da una parte, deve scendere a Pagano e aspettare la metropolitana che prenderà il corno del dilemma migliore, e lì appunto, insomma, questo mi ha ispirato una serie di osservazioni sui bivi, sui trivi, sui labirinti, che sono appunto forme topologiche che hanno anche a che fare con l'urbanistica, con la città, perché una città sconosciuta è un labirinto per chi non la sa, diventa un labirinto per chi non la sa girare, ma sono anche strutture anche psicologiche. Ogni tanto qualcuno ci si trova davanti a dei bivi, situazioni che vengono chiamate senza uscita, situazioni in cui stati di smarrimento, che sono appunto le cose che vengono così suscitate dai labirinti veri e propri. Per cui appunto sì, prendendo quello spunto dall'esistenza del bivio di Pagano, ho pensato di parlare di questo. Grazie a Stefano Bartezzaghi, autore di M, una metro novela. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. Parliamo adesso di uno dei miti letterari di Milano, Manzoni, e il suo capolavoro, I Promessi Sposi. E in particolare parliamo del rapporto di questo grande libro con la modernità ricercata attraverso le trasposizioni cinematografiche. Uno dei tentativi più ambiziosi di trasformare il libro di Manzoni in un film fu avviato negli anni 50 da una nota casa cinematografica, la Lux, che voleva realizzare appunto un film sui Promessi Sposi. Si mise molto d'impegno per questo obiettivo. E infatti l'amministratore delegato della società, che si chiamava Guido Maggiorino Gatti, scrisse sulla fine del 1954 a un gruppo di intellettuali italiani su come, secondo loro, si sarebbe potuto ricavare un film dai Promessi Sposi e soprattutto se e come questo film potesse raggiungere un successo internazionale. Fu un'opera ambiziosa, guidata da uno degli intellettuali più in vista dell'epoca, che era Emilio Cecchi. E le vicende sono narrate nel libro curato da Salvatore Nigro e Silvia Moretti, Promessi Sposi d'autore, un cantiere letterario per Luchino Visconti, pubblicato da Sellerio, 192 pagine, 16 euro. Cosa c'entra Visconti? Delle risposte dei letterati molte carte sono andate perdute, anche se per esempio se ne trova traccia nel caso di Moravia, ad esempio, in alcuni suoi scritti manzoniani. Sappiamo che prevalse la proposta di Giorgio Bassani, che, spiega Nigro, dimostrò un taglio laico proponendo di andare oltre il traffico delle apparenze narrative, al di là degli stereotipi degli stessi personaggi della vicenda, per osare cogliere, scrive Nigro, quanto di moderno e attuale e vivo potesse offrire all'interesse dei lettori e degli spettatori contemporanei lo spirito del romanzo manzoniano. E il film venne affidato appunto a Luchino Visconti, reduce dai successi di Senso, che era stato prodotto dalla stessa casa cinematografica Lux. Ma questo progetto si trascinò per anni, fino a un provino girato nel 1961 su un episodio relativo alla monaca di Monza, e poi il progetto venne abbandonato da parte dello stesso Visconti, che si sarebbe dedicato in quegli anni, in quei mesi, al Gattopardo. E nel libro troviamo, oltre alla ricostruzione della vicenda, le carte superstiti, alcuni anche dei grandissimi autori del Novecento. Oltre a quelli che ho citato, Moravia, Bassani e Cecchi, troviamo anche Riccardo Bacchelli e Antonio Baldini. L'epilogo della vicenda, al di là della non realizzazione del libro, fu malinconico, perché la Lux dopo poco tempo avrebbe chiuso e una trasposizione cinematografica dei Promessi Sposi sarebbe stata sì realizzata, ma purtroppo in quelli che si chiamano film di serie B. E a questo punto... Il confettino. La metro di cui abbiamo parlato con Stefano Bartezzaghi ci aiuta a compiere il percorso al quale ci invita il libro Milano mille storie, storie e storie di Milano raccontate ai ragazzi di Patrizia Zelioli con le illustrazioni di Giulia Orecchie, pubblicato da Baba Libri, 148 pagine, 16,50 €. Questo libro molto utile per far conoscere e amare Milano ai ragazzi. Ci sono testi, illustrazioni che presentano una miniera di fatti, personaggi e luoghi milanesi, e il sito del libro tra l'altro consente di ascoltare ulteriori storie e il QR code che è contenuto nel libro stesso consente di scaricare le storie collegate ai luoghi citati nel libro quando ci si passa davanti. E a questo punto una breve interruzione, ci risentiamo fra pochi minuti. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, abbiamo parlato di Milano, abbiamo accennato all'Expo. Sull'Expo vi segnalo un libro che ci spiega come la città lombarda ha conquistato la nomina ormai già diversi anni fa. Il libro si intitola La candidatura, Expo, la vera storia di un successo italiano, e ne è autore Gaetano Castellini Curiel, che è stato uno stretto collaboratore dell'allora sindaco Letizia Moratti, che tanto si prodigò per questo obiettivo. Il libro è pubblicato da Indiana, 134 pagine, 16,50 €. E troviamo qui appunto il racconto di questa avventura, un'avventura che ha portato l'autore a visitare nel corso della campagna per convincere appunto tutti i paesi a votare per Milano, a visitare, dicevo, 80 paesi e percorrere 500.000 chilometri. Fu una campagna frenetica durata diversi anni che sembrava persa in partenza, ma che invece Milano riuscì a vincere grazie proprio a quest'opera di convincimento e motivazione per ogni singola nazione, per ogni governante che doveva poi decidere, che vennero appunto convinti grazie a queste missioni. Alla fine andò bene, come sappiamo, Milano vinse per 86-65 grazie appunto anche, dice l'autore, a uno spirito di collaborazione non solo nella squadra della Moratti, ma anche tra le istituzioni, il comune, il governo e tutte le forze che in qualche misura rappresentano il nostro paese, dice infatti l'autore, parlando della ricerca, della moda, del design, del calcio, dell'industria, della cultura e del sistema sanitario, che tutte queste componenti hanno collaborato insieme, ma quello spirito presto si è esaurito. Questa è una malinconica osservazione finale di Curiel. Speriamo che i prossimi mesi dimostrino che comunque l'Expo potrà essere un successo. Il tema dell'Expo, come sapete, è nutrire il pianeta, energia per la vita. E allora vi segnalo, a proposito della centralità del tema dell'alimentazione, della sicurezza alimentare, della passione per l'alimentazione, un libro di un autore americano molto noto, Dan Berber, che è un grande chef, uno dei più celebri negli Stati Uniti. Il suo libro si intitola La cucina della buona terra, storie di passione per il cibo. È pubblicato da Bollati Boringhieri, tradotto da Francesca Pei, 426 pagine, 29 €. In questo libro si parla di molte storie che hanno a che fare con l'esperienza del movimento dalla fattoria alla tavola, dal produttore al consumatore, diremmo noi, che ha profonde connotazioni ambientali. Come spiega Barbara, infatti, l'erosione del suolo, l'abbassamento delle falde freatiche per l'irrigazione, il collasso degli stock ittici, la deforestazione e il deterioramento delle praterie sono solo alcuni dei problemi ambientali causati appunto dallo sviluppo della nuova agricoltura, problemi che continueranno a moltiplicarsi con l'innalzamento delle temperature. E in questo senso Banner ammette di essere una figura abbastanza tipica, quello dello chef attivista. E infatti Barbera anima anche un'azienda agricola a 30 km di New York, che era stata voluta da un esponente della famiglia Rockefeller, la motivazione romantica, perché voleva tornare a sentire il sapore del latte appena munto della sua infanzia. E nel libro di Barber quindi parliamo di produzione alimentare più che di cibo, si parla del suolo, della terra, del mare, del seme, nella convinzione che il buon cibo non possa essere ridotto ai singoli ingredienti, scrive infatti l'autore, che esso richiede una rete di relazioni che lo sostenga. E Barber conclude con un menù avveniristico datato 2050 nel tentativo di recuperare antichi profumi e utilizzare nuove opportunità. Sentiamo per esempio la sorpresa che Barber provò nel 1994 quando lavorava in un famoso ristorante californiano e venne colpito dal fatto che uno dei dessert che veniva servito con una cura quasi religiosa e maniacale su un piatto che non conteneva null'altro che quella portata era semplicemente una pesca, una grande pesca nemmeno guarnita da alcun altro prodotto. Barber si meravigliò, un po' si indispettì che appunto come dessert venisse servito con tanto sussiego semplicemente un frutto, ma poi lo assaggiò e capì di che cosa si trattasse. A fine serata, quando ne presi un morso, per caso le luci si offuscarono e il calore di uno spirito divino scese su di me? No. Ma non avevo mai assaggiato una pesca così. Mentre la mordevo, ricordo di aver pensato che quella pesca aveva un sapore così pieno, deciso come uno stufato di carne, che mi sembrava di avere in bocca qualcosa di molto più ricco di un semplice frutto. Ero colpito in uguale misura dall'acidità e dalla dolcezza, come un vino equilibrato. Il succo mi colava sul mento. Un morso, un altro morso, e ben presto rimanevano solo i frammenti di polpa che mi si erano incollati sul viso. Fu la pesca più buona della mia vita. Ma devo specificarlo perché, come la maggior parte degli americani sotto i 50 anni, fino ad allora non avevo idea di che sapore dovessero avere le pesche. Negli anni 70 e 80 i selezionatori avevano creato nuove varietà improntate alla funzionalità, non al sapore. Frutti a basso contenuto di acidi e ad alto contenuto di zuccheri, che potevano essere raccolti ancora acerbi e sopportavano bene i viaggi lunghi. Quelle pesche erano una delizia incredibile, ma fecero di più. Convinsero la gente che il buon cibo è inseparabile dalle buone pratiche agricole. Potrebbe sembrare ovvio, ma spesso gli chef non lo lasciano capire in maniera così immediata. Due romanzi che muovono da remote civiltà contadine, questi in Italia, sono il primo di Mimmo Gangemi, che è uno scrittore ingegnere calabrese, che ha pubblicato Un acre odore di aglio con Bompiani, 202 pagine, 17 euro. In questo libro troviamo un cola di fine 800 che scommette sulla capacità di far rinascere le terre abbandonate da un latifondista e da qui si sviluppa una storia lunga quasi 100 anni che è una radiografia anche dell'evoluzione di una famiglia e di una regione, una radiografia sintetizzata nelle righe che vi propongo. Passarono annate olearie vuote, altre cariche, altre a cui toccava essere cariche ma si persero per strada, a causa della neve, del vento forte quando avrebbe dovuto essere brezza, della pioggia da diluvio, della lupa. Passarono tempi con le fiumare incattivite, impietose sulla miseria. Passarono guerre lontane. Passò il terremoto di Messina e di Reggio, che portò rovine anche in paese. Morti no, a parte le due mule di ricotta, che le pianse più di quanto avrebbe pianto il figlio, caduto in un'imboscata da piombo a causa dell'offesa recata di giorno all'onore di una femmina di notte compiacente alle voglie di chiunque. Il palazzo marchesale degradò sotto l'incuria, disabitato per la maggior parte dell'anno. I figli del generale tornavano solo per riscuotere dai fattori la metà della stima sulle olive, rassegnati a vedersi gonfiare le spese e scalare la resa, a trovarli ogni volta più ricchi, più padroni e più sfrontati, a riceversi un inchino che scemava in profondità, finché si trasformò in un'energica stretta di mano. L'altro libro è di Margherita Giacobino, che è una scrittrice e traduttrice, si intitola Ritratto di famiglia con bambina grassa, pubblicato da Mondadori, 258 pagine, 17,50 euro. Qui invece si parte dalla campagna del Canavese, in Piemonte, dove viene alla luce Ninina alla fine dell'Ottocento, dalla quale discende la stessa autrice, che scopre attraverso anche i propri studi universitari la forza di un potere matriarcale al quale si accompagna però la fragilità del potere che viene esercitato dalle donne. Buone o cattive che fossero, scrive l'autrice, le maschie di un tempo, contadine, madri ostetriche, raccoglitrici di erbe, donne streghe o semplicemente donne, vivevano esposte a un vento di pura barbarie. E il libro quindi diventa un romanzo corale su un pezzo della storia d'Italia, intessuto di affetto, forse non tanto di nostalgia, che ci presenta una vera e propria rivoluzione letta e vissuta attraverso la rottura di tradizioni secolari, per esempio la produzione del burro, alla quale la Giacobino dedica una pagina quasi lirica. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Anzi, vi informo che il sito adesso funziona bene perché abbiamo avuto qualche giorno di problemi nel far scaricare le vecchie trasmissioni, ma adesso funziona. Buona serata a tutti, appuntamento domenica prossima.